Caffè della Domenica di Maria Latella. Buona domenica, buon caffè che prenderete sicuramente molto volentieri, perché questa domenica il caffè lo prendiamo con qualcuno che ci racconta che cosa ci attende. No, non stiamo parlando di Branco o di un altro grande nome dell'astrologia. Oggi il caffè lo prendiamo con Sebastiano Barisoni, che è anche il vice direttore esecutivo di questa radio, di Radio 24, e che ha scritto un libro che si chiama Terra Incognita, una mappa per il nuovo orizzonte economico, pubblicato dalle Edizioni Solferino, in cui andiamo a scoprire che cosa resterà di questo anno terribile o che cosa cambierà. Buona domenica, Sebastiano. Buona domenica a te, Maria. Sì, il caffè lo prendo sicuramente io, perché per me sono orari un po' difficili, diciamo, nel senso che preferisco lavorare di notte che di giorno. Per rispondere alla tua domanda, in realtà, allora, vorrei essere Branco innanzitutto, e mi divertirei di più. Anche io. Però il libro è stato pensato ed è stato, diciamo, scritto soprattutto prima del Covid. È chiaro che poi è stato anche, ha dovuto tener conto di quello che è capitato da febbraio in poi, ma il motivo è perché è un libro che cerca di dare risposta a una domanda. Dal 2008 in poi io continuavo a osservare tutti i miei interlocutori chiedere quando finisce questa crisi. In realtà questa domanda c'era anche quando la crisi era ampiamente finita, intesa come crisi vera e propria, parliamo degli ultimi anni, e magari i fatturati erano tornati grazie all'export sui livelli di prima o vicini ai livelli di prima, però l'angoscia era ancora ben presente nei volti, e allora ho iniziato a chiedermi se fosse corretto parlare di crisi o in realtà questo senso di angoscia, di incertezza estrema, che non va confuso col rischio e con la paura, sono due cose diversissime, non fosse dovuto al fatto che nel frattempo era cambiato l'orizzonte di riferimento. Il libro si chiama Terra Incognita perché, come se ti cambiano le mappe, o meglio, non hai mappe per il nuovo mondo, è chiaro che tu puoi anche avere i fatturati vicini o anche superiori a quelli del 2007, del 2008, ma ti senti comunque spaesato. Allora, il libro nasce come ricerca di una spiegazione di questo spaesamento, che è stato aumentato ulteriormente dal Covid e dalle incertezze che ha creato. La risposta è che fossimo, Maria, già prima del 2008 e a maggior ragione con la frattura del 2008, in una fase di trasformazione epocale che gli storici chiamano rivoluzione. Rivoluzione chiaramente economica, che parte sempre da un motivo però tecnologico, e rivoluzione economica che non è dovuta tanto né alla crisi finanziaria, che è stato un acceleratore, né alla globalizzazione intesa in senso stretto, perché la globalizzazione ha premiato alcuni e ha sconfitto altri, ha reso più poveri altri, e quindi che ci dovesse essere un motivo ulteriore per una rivoluzione. Io il motivo l'ho individuato nella rivoluzione del web. Cioè, nel frattempo, mentre noi cercavamo come una nave in tempesta di resistere ai marosi che arrivavano dalla crisi finanziaria del 2008, dall'attacco ai debiti sovrani del 2011 e dalla globalizzazione che andava a ridefinire anche le varie strutture produttive, la divisione del lavoro, mentre noi eravamo occupati a gestire questa tempesta, stava succedendo qualcosa sotto traccia, e una rivoluzione costante, anche se più silenziosa, che ha messo il consumatore in grado di giudicare l'offerta di beni e servizi su scala planetaria, indipendentemente dal luogo in cui tu risiedi, grazie al web, grazie al tablet, al telefonino, al computer. E ha messo il consumatore con il coltello dalla parte del manico rispetto a chi offre un bene o un servizio. Ecco perché io parlo di schizofrenia di questa rivoluzione, che se vuoi ti spiego anche perché. Sebastiano, mi interessano molto le tre I che tu individui come le I della rivoluzione tecnologica e sociale. Le vediamo insieme? Sì, in realtà le tre I sono di tutte le rivoluzioni, quindi valgono anche per questa, e distinguono una crisi che, per quanto forte, ha sempre porta poi a un ritorno ai livelli precedenti, da una rivoluzione dove non torni mai ai livelli precedenti. E infatti la prima I è proprio questa, è l'irreversibilità. Dalle crisi tu esci, come in un rapporto di coppia. tu puoi avere una crisi per quanto lunga e pesante, ma poi esci. Se invece la coppia si separa, hai rivoluzionato, hai cambiato il paradigma completamente del rapporto, non c'è più quella coppia lì. Quindi le rivoluzioni, a differenza delle crisi, sono irreversibili, e sbaglia chi pensa con ritorno alla lira, con formule magiche, esoteriche, di tornare quando io avevo 20 anni. Non si torna indietro, c'è una battuta che faccio: non basta mettersi i jeans rossi a 60 anni che mettevi a 20 anni per avere i 20 anni. Ti dicono solo che tu hai, non sei ingrassato, ma col cavolo che torni all'età dei tuoi 20 anni, solo perché hai lo stesso fatturato, lo stesso profitto. Quindi irreversibile è la prima I. Indistinta è la seconda I. A differenza delle crisi che colpiscono più alcuni settori rispetto ad altri, la crisi petrolifera, la crisi finanziaria, potremmo andare avanti, le rivoluzioni sono come la livella di Totò, colpiscono tutti i settori, non c'è nessuno che possa chiamarsi fuori. La rivoluzione del web colpisce noi giornalisti, che fino a 10-12 anni fa eravamo gli unici a avere le agenzie, e adesso invece le notizie sono gratis su tutti i telefonini. Colpisce l'agenzia di viaggi, che prima era l'unica a avere il monopolio o l'oligopolio, adesso si vede far concorrenza sull'online. Colpisce il tassista, colpisce chi vende prodotti assicurativi, cioè nessun settore si può chiamare escluso. E la terza I è quella più fastidiosa, perché sono imprevedibili. Cioè le rivoluzioni nella storia si sono capiti, si è capito il loro portato, quello che è stata la conseguenza solo alla fine, non durante. Ecco perché io penso che sia molto rischioso parlare di dove ci porterà questa crisi, perché le rivoluzioni nel loro effetto complessivo si capiscono alla fine. Voglio dire, quando il web è nato eravamo tutti contentissimi. Ah, che bello, posso prendere un volo online senza spostarmi, posso confrontare quanto costa un giaccone stando sul divano di casa, posso leggere notizie senza andare all'edicola. Poi ci siamo accorti, e qui parlo di schizofrenia, che quando toccava a noi essere dentro lo schermo, e non più quindi consumatori fuori dallo schermo, ma noi a essere scelti, e lì iniziavano i dolori. E allora io faccio l'esempio dell'agente dei viaggi che odia questa rivoluzione perché deve competere con Booking.com, con TripAdvisor, con tutti gli altri, ma nel frattempo sta prenotando una macchina con Uber. E il tassista che odia questa rivoluzione perché Uber gli fa concorrenza piuttosto che altri servizi, ma mentre la odia sta prenotando un volo con Booking.com. Ecco la schizofrenia. E c'è anche un'altra vocale che mi è piaciuta nel tuo libro, ed è la E di empatia e anche di emotiva, come intesa come intelligenza emotiva. Ci spieghi perché possono essere le bussole che potranno orientarci in questa terra incognita? Perché se decidiamo che l'unica cosa che funziona è il web, siamo tutti sottoposti, quando siamo dentro lo schermo, all'algoritmo, no? E allora è una vita molto precaria, perché tu sei lì che aspetti che qualcuno ti scelga, un po', adesso passami il termine un po' brutale, un po' da mercato degli schiavi. Arriva qualcuno che è il cliente, decide che Maria Latella o Sebastiano Barisoni possono andare bene, però non sai mai cosa farà la volta dopo, cioè l'algoritmo che sceglie al posto tuo. L'unico modo per uscire dalla trappola dell'algoritmo è l'empatia, o meglio la consulenza. Guarda, nell'esempio che ti facevo prima, prendiamo il giornalista e l'agenzia di viaggi, così sono molto diversi. A me nessuno più chiede quando arrivo in un posto cosa è successo oggi, come invece avveniva fino a 15 anni fa, 12 anni fa, perché tutti hanno già visto le notizie gratis. Quello che mi viene chiesto, se ho fortuna, è che cosa ne pensi di quello che è successo oggi. Quindi una consulenza sull'informazione, una interpretazione. E per fare questo io devo essere empatico, perché devo capire se di fronte a me è una persona che ha una cultura media, una cultura altissima, ha un orientamento di un certo tipo, ha un'età di un certo tipo, un'età di un altro. Allo stesso modo l'agente di viaggi non è più importante per offrirti quelli che sono i prodotti che puoi già trovare sulla rete, ma se io dovesse farmi un'idea di un posto dove andare, lui è empatico con me, cioè capisce, mi profila, sa quale può essere, perché mi conosce, perché riesce a profilarmi, quello che può essere il mio interesse, allora batti l'algoritmo, perché l'algoritmo da questo punto di vista è empatico pari a zero. Ti faccio un esempio: se tu vuoi andare a cenare con tuo marito a Venezia e conosci già il ristorante dove vuoi andare, nessuno batte l'algoritmo. Digiti il nome del ristorante Rossi a Venezia e scoprirai tutte le informazioni al mondo su quel ristorante. Ma se tu volessi andare a Venezia che non conosci con tuo marito e digitassi ristorante romantico a Venezia, l'algoritmo è grezzo, non è in grado di distinguere i gusti di Maria Latella, che è italiana, che ha una certa età, una certa cultura, dai gusti di Maria Latella, che magari è cinese, ha una diversa età, una diversa cultura, e via così discorrendo. E infatti tu non digiteresti mai ristorante romantico a Venezia, perché ti escono fuori migliaia di risultati inutili, quella che gli inglesi chiamano net fishing, cioè la pesca di strascico. Cosa farai? Chiamerai un tuo amico, qualcuno di cui ti fidi, gli dirai: scusami, dove mi consiglieresti di andare a mangiare a Venezia? Questa consulenza, che per forza di cose, se è consulenza, deve essere empatica, è quello che ti permette di uscire dalla semplice scelta dell'algoritmo, perché dà un valore aggiunto in più che l'algoritmo non riesce a darti. Ecco, per concludere e navigare insieme in questa terra incognita, mi pare che tu parli anche di neosobrietà dell'era dei social network, e da un lato, e questa neosobrietà coincide forse un po' anche con un cambiamento di prospettiva rispetto al capitalismo. Vedo miliardari che, tipo Warren Buffett, ma non solo lui, che mettono il dito nella piaga del capitalismo così come è stato. Tu stesso appunto accennavi alle bolle che si sono succedute dalla crisi dei subprime adesso. Le nuove generazioni e la loro neosobrietà cambieranno qualcosa nel modo di percepire l'economia? Ma guarda, lo stanno già cambiando. Io, c'è un capitolo che si chiama I giovani sono i rabdomanti del valore aggiunto, perché questo libro è dedicato ai giovani per il mondo che non hanno mai conosciuto, ma è dedicato a noi per il mondo che dobbiamo ancora scoprire, nel senso che i giovani sono nati in questo mondo, cioè chi adesso ha 20 anni ne aveva 8 quando è scoppiata la crisi del 2008, cioè praticamente non si ricorda niente. E peggio ancora i 18 anni, loro sono già nati in questo mondo di neosobrietà. La neosobrietà è resa possibile dalla rete, perché è chiaro che la rete va a attribuire il valore con l'algoritmo nella maniera migliore che riesce a fare, cioè, ma è anche un cambiamento culturale, ecco perché è una rivoluzione. Te la faccio breve: la generazione a cui appartengo è quella degli anni 80 in poi dei bisogni indotti. Noi non avevamo bisogno di cambiare l'auto ogni 3 anni o di cambiare l'abito ogni anno, ma lo facevi per un motivo culturale. Questa è la, diciamo, generazione della neosobrietà: vanno a comprare solo quello che ha un alto valore aggiunto. L'automobile è poco cambiata rispetto a 10 anni fa, e allora l'affitti, la noleggi, e crolla il numero dei neopatentati in percentuale ogni anno. Il telefonino ha messo valore aggiunto in questi ultimi 15 anni, perché da un telefonino è diventato una carta di pagamento, un computer, un telefonino, quello che vuoi. Vanno a spendere sul telefonino. La battuta che faccio io, che capisce chi è la mia generazione, è che, insomma, negli anni 80, se tu fossi andato a comprare il giaccone invernale, diciamo, nell'outlet in provincia, non lo raccontavi, dicevi che l'avevi comprato in centro, perché faceva povertà sociologicamente, no? Sembrava. Adesso un ragazzo che ha 20 anni, che racconta che ha comprato in centro un giaccone che poteva trovare sull'online o in un outlet al 30% in meno, fa la figura del pirla. E probabilmente sono più sobri in questo senso, anche non dico più intelligenti, ma più aderenti alla realtà, i ragazzi di 20 anni adesso, ed eravamo più noi soggetti ai bisogni indotti negli anni 80. Esplorando quindi questa terra incognita questa mattina e prendendo il caffè con Sebastiano Barisoni, mi sembra di capire che ci sia da un lato una speranza, una comprensione quantomeno di questo periodo, e dall'altro anche, come dire, una bella sfida, perché è vero che il 2020 è stato un anno pesantissimo, sì, ma è anche vero che ci pone di fronte a delle scoperte, a delle nuove esperienze, e se non altro, parlo certamente non per i ventenni, ma per chi di anni ne ha un bel po' di più, è una bella sfida mettersi alla prova. Quindi vi ricordo, sì, ricordandoci che non è un peccato capitale, non è una lettera scarlatta errare. Quando esplori terra incognita, l'errore è già previsto, ma uno non deve farsene una croce. E soprattutto adesso bisogna anche pensare che quelli che magari sono stati colpiti da questi mesi economicamente, ecco, si spera che abbiano anche delle nuove chance per mettersi alla prova, Certo. perché loro non hanno sbagliato, sono Hanno sbagliato semplicemente epoca. incappati in questo terribile 2020. Allora vi ricordo, Terra Incognita di Sebastiano Barisoni, voce a voi molto nota perché la sentite sempre a Focus Economia tutti i pomeriggi. Buona domenica, prenditi un secondo caffè, ti conosco Sebastiano, a Sì, quest'ora sono già te ne vogliono esausto. anche tre. Grazie Ciao, Maria. buona domenica.